Ingrid. I coltelli erano allineati, lucidi e ordinati, tra i piatti puliti. Ingrid si infilò i sottili guanti di pelle, ne scelse uno bello grosso e affilato e lo soppesò in mano. Aveva sentito a sufficienza. Tornò in punta di piedi verso la scala e iniziò a salire. Dal piano di sopra arrivavano singhiozzi soffocati, poi una porta si chiuse. La cagna non vuole obbedire. Ingrid si rannicchiò sul pianerottolo in attesa. L'uomo si stava allontanando, non lo aveva ancora visto. Lo sentì frugare in cerca di qualcosa, poi i passi si avvicinarono, diventarono più forti. Stava tornando verso di lei. Quando le arrivò a circa un metro di distanza, Ingrid si gettò su di lui. All'ultimo momento, l'uomo doveva aver percepito la sua presenza, perché fece in tempo a girarsi e ad alzare un braccio. Ingrid sentì una fitta di dolore alla guancia. Ma era troppo tardi. Ormai gli aveva piantato il coltello nello stomaco. L'uomo ansimò, guardandola senza capire. Dalla bocca spalancata gli uscì un gorgoglio. Ingrid estrasse il coltello e lo colpì una seconda volta, poi un'altra ancora. L'uomo cadde a terra. Ingrid guardò il corpo immobile. Cosa doveva fare? Aveva accoltellato una persona. Sentì dei gemiti. Non provenivano dall'uomo, ma dalla stanza chiusa. «È morto», disse. «Sta bene?» Silenzio. Ripeté la domanda. «Me la caverò», rispose la donna. Ingrid voleva entrare, abbracciarla, consolarla, dirle che il suo inferno era finito. «Resti dov'è», disse invece. «Non dobbiamo vederci in faccia». Rifletté un momento. «C'è stato un tentativo di furto finito male. Suo marito ha sentito il ladro ed è rimasto ucciso. Porto via il coltello. Adesso devo andare. Chiami subito la polizia». «Grazie». Ingrid si guardò attorno. Gli occhi le si abbassarono sulla cinta caduta vicino al corpo dell'uomo. Era quella che l'aveva colpita la guancia. La prese e se la ficcò in tasca.